peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi in sostanza una qualche riflessione su il rapporto tra gli stili e i territori limitrofi mi è così apparsa per la pubblicazione di alcuni lavori. L'unico stile o uno ormai dei pochi stili definibili, riconoscibili dagli anni 80 in poi, e la bass music di Steve Coleman. Però questo tipo di linguaggio, questo percorso che in sostanza ha rappresentato costantemente tutta la carriera di Steve Coleman, ha avuto anche altri, naturalmente altri seguaci, ma anche personaggi che hanno lavorato al limite o a confine con questo, pur intrezzandosi anche negli stili suoi. La riflessione mi viene dall'uscita di un disco nel quale fa parte anche il sax contralto di Dave Binney e il sax tenore di Danny McCaslin. Il disco è di Antonio Sanchez, un batterista che è messicano, che poi studia, cresce musicalmente a Boston, poi per trasferirsi artisticamente ormai in toto a New York. Ma questo è un musicista che suona, ha avuto esperienze sia con personaggi importanti della cosiddetta mainstream come Pat Metheny o come Chick Corea, ma anche con personaggi legati poi all'avanguardia o a una prosecuzione del linguaggio del bass music, penso a Steve Lemon per esempio, o diversi altri musicisti. Sono professionisti ormai, sono diversi, che capaci sia come sidemen, richiesti naturalmente un livello professionale molto elevato, che come leader di progetti propri. Questo è un disco uscito recentissimamente intitolato New Life, vedo una formazione di tutto riguardo, infatti oltre appunto Antonio Sanchez alla batteria anche a tastiere e utilizzo anche della voce, e Donny McCaslin, come dicevo, al tenore, e Dave Binney al sax contralto. Poi si aggiungono al pianoforte John Eschert, al pianoforte elettrico, Matt Brewer al basso acustico e elettrico, e anche poi in un brano la voce di Tana Ledger. Ascoltiamo un paio di composizioni che sono tutte firmate da Antonio Sanchez. Ascoltiamo un paio intitolate No Time Story e Medusa. Thank you. Questo era il gruppo di Antonio Sanchez, batterista messicano, tra diciamo, i sidemen più richiesti, i batteristi percussionisti più richiesti dell'ultima generazione, e con una notevole presenza di David Binney, soprattutto anche di Donny McCaslin alle anze. Ma David Binney al sax contralto dimostra di essere senza dubbio uno dei migliori sax contralto sulla scena internazionale, ed è un musicista che ormai quasi ha 23-24 anni di attività sulle spalle, quindi una maturazione che ha preso come dire, la strada alla fine degli anni Ottanta, con un obiettivo che era quello di emulare Michael Brecker, sicuramente è uno dei sax contralto che si avvicina maggiormente al linguaggio di Michael Brecker, pur essendo poi tenorista, ma a differenza di molti altri, insomma, erano altri i sassofonisti che potevano ascriversi a quella lunga corrente nata anche dalle esperienze di un certo jazz rock degli anni 70 e che poi ha lasciato anche molte cose di dubbio gusto sul suo terreno, ma anche delle esperienze interessanti e notevoli, come peraltro appunto quella di Michael Brecker. Ma Binney, all'inizio della sua attività aveva questo tipo di intenzione, che poi la verifichiamo anche nell'ultimo periodo, in quello che abbiamo ascoltato adesso, è senz'altro una sorta di continuazione dell'esperienza di Brecker, ma gli inizi sono stati più legati a quella che è stata poi l'ambient music. Era un punto di contatto tra quello che poteva essere l'esperienza di Brecker con quella di Steve Coleman, che sembra curioso tutto sommato, anche perché le esperienze Steve Coleman, come dire, l'influenza maggiore veniva da Braxton, da Treadgill, però il punto di incontro con la musica rap, con la musica da strada, trova un elemento ritmico in comune con quello che poi è un'evoluzione invece che proviene dall'esperienza del jazz rock degli anni 70. Ho ritrovato il primo disco uscito come leader, perlomeno, di Dave Binney, un disco che risale all'89, peraltro un disco curioso anche perché l'etichetta discografica, la Hall, etichetta francese importante, che ha lasciato testimonianze veramente importanti di diversi musicisti, sia francesi che americani. Penso per esempio alla riedizione del trio di Paul Blay con Jimmy Jaffery e Steve Swallow, che ha avuto una pubblicazione, 3-4 pubblicazioni in questa etichetta, ma anche tutte le esperienze da Petrucciani a François Jeannot, eccetera. Nell'89 esce questo lavoro, Point Game, che vede un incontro importante, quello appunto di Dave Binney al sax contralto e la chitarra di Adam Roger, che poi sarà un suo compagno di attività musicale per tutti gli anni 90, fondando un gruppo interessante, molto interessante, Lost Tribe, che era appunto prendeva spunto anche dalla musica ambient di Steve Coleman. Qui la formazione con appunto oltre a Dave Binney al sax contralto, Adam Roger alla batteria, al basso Lonnie Plaxico e alla batteria Marvin Smith, che quindi appunto è un punto in comune anche con l'esperienza di Steve Coleman. Si aggiunge anche al pianoforte in alcune occasioni o al sintetizzatore Edward Simon. Ascoltiamo i primi due brani del disco. Il primo prende appunto il titolo dall'intero album, Point Game, il secondo Subjection. Thank you. Thank you. Questo era il gruppo di Dave Binney, anzi il primo disco di Dave Binney, disco dell'89, intitolato Point Game, quindi si sente il linguaggio del sassofono di Binney che risente, ma soprattutto anche per l'influenza, per la sonorità, il timbro che suggerisce il drumming di Marley Smith alla batteria, e che in quegli anni poi collaborava anche con lo stesso Steve Coleman. Marley Smith per diverso tempo lavora insieme a Steve Coleman e contribuisce a dare anche questo sapore allo stile della bass music, questo stile elaborato e teorizzato da Steve Coleman. Di recente, nelle ultime settimane, è uscito l'ultimo lavoro appunto di Steve Coleman con i Five Elements, questa formazione che ha praticamente per due decenni ha sempre proposto progetti che seguono quello che è l'intenzione espressiva di Coleman. Il lavoro direi che è ben riuscito, probabilmente anche in modo forse anche superiore alle ultime prove che erano state date. È un lavoro maturo che ripercorre comunque lo stesso percorso espressivo, ma con risultati appunto direi notevoli. La formazione è, come ormai da tempo, il collaboratore alla tromba è Jonathan Finlayson, che è sicuramente uno dei trombettisti più interessanti, più importanti del momento, un trombettista che suona sia come leader che come sideman in varie formazioni d'avanguardia, compresa quella di Steve Lehman. Poi altri musicisti che hanno collaborato in passato in più occasioni con Five Elements: Anthony Dead al basso elettrico, Sean Richman alla batteria e Miles Okazaki alla chitarra in diversi brani. Ascoltiamo da questo lavoro intitolato Functional Arrhythmias, ascoltiamo tre brani, tre composizioni. Ce ne sono 14, sono 14 brani, tutti naturalmente firmati da Steve Coleman. Come spesso accade, Coleman compone brani anche abbastanza brevi, frequentemente anche abbastanza brevi, compatti, quindi con una scelta espressiva contraria a quella che poi il suo lavoro in concerto, che se ha un limite estetico è proprio quello di non riuscire a trovare una sintesi e di prolungarsi eccessivamente nei suoi concerti. Comunque ascoltiamo queste tre composizioni. Thank you. Questo era i Five Elements di Steve Coleman, l'ultimo lavoro uscito nelle ultime settimane, Functional Arrhythmias. E naturalmente anche in questo caso l'etichetta discografica, la PI, questa etichetta che raccoglie molti dei musicisti che fanno riferimento a quest'area, penso per esempio anche al gruppo di Henry Threadgill, ma anche Steve Lehman o anche Mark Ribot e diversi altri, insomma legato a quello che è l'avanguardia dell'area più newyorkese, prevalentemente newyorkese, ma non solo. Da notarsi la tromba di Finlayson, che continua ad essere una collaborazione preziosa di questa formazione. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni e anche la registrazione della puntata sul nostro sito radiocittafujiko.it e alla sezione musica. Questo è tutto, salve e alla prossima. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Sal Peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.